Cretino. Statua che brucia di marmo bianco, chiuso sul letto sono stanco, colonna di mercurio colpisce la testa, vessaglia nichilista, si liquefa il cervello, sgorgando da un orecchio, e sul cuscino estate a Portofino, dicono che i Doberman hanno problemi di natura pratica, e il cervello sia più grande della scatola cranica. Dicono che i Doberman hanno problemi di natura pratica, e il cervello sia più grande della scatola cranica. Taglia masochista, taglia fatalista. Io sono un Doberman sulla ruota panoramica. Dicono che i Doberman hanno problemi di natura pratica, che il cervello sia più grande della scatola cranica. Dicono che i Doberman hanno problemi di natura pratica, che il cervello sia più grande della scatola cranica. Io sono un Doberman sulla ruota panoramica. Io sono un Doberman sulla ruota panoramica. Io sono un Doberman la ruota panoramica. Come una statua che brucia di marmo bianco, chiuso sul letto sono stanco, come una statua che